Capitolo secondo. Essere creatori. Pim. La mia curiosità è ora rivolta verso qualcosa che avete detto, e che mi piacerebbe approfondire. Che vuol dire essere creatori? Una delle domande che ci avete fatto a proposito dell'amare noi stessi è stata: riuscite a credere davvero, senza ombra di dubbio, di essere creatori, e liberi di essere tutto ciò che desiderate, al comando della vostra vita, completamente indipendenti, con il potere di modellare la vostra esperienza terrena nel modo che vi piace di più? Scommetterei che la risposta del 99% delle persone che conosco sarebbe no. E devo dire onestamente che anche la mia risposta è no. Lasciatemi dire che la vostra visione è molto rivoluzionaria, e che secondo i canoni della mente razionale, e del modo di pensare della maggior parte delle società su Gaia, l'idea di essere creatori, liberi, al comando della nostra vita, indipendenti, col potere di modellare ciò che desideriamo, è a dir poco assurda. Ma so che avete detto che è arrivato il tempo di ricordare e rivoluzionare il pensiero. E so, senza ombra di dubbio, che c'è un grande desiderio e una grande attesa per questa rivoluzione del modo di pensare. E allora vi chiedo, che vuol dire essere creatori, al comando della nostra vita, col potere di modellare ciò che desideriamo? Guide e maestri. Per rispondere alla tua domanda, dobbiamo partire un po' da lontano. Ciò che diciamo vi arriva in forma di blocchi di pensiero. Nella vostra mente all'inizio le informazioni che ricevete possono apparire come una massa agglomerata, difficile da districare. Immagina un mosaico. Ogni blocco è come una tessera del mosaico. Per vedere l'immagine completa, ogni tessera deve trovare il suo posto. Ascoltateci con pazienza. Differenti livelli di consapevolezza. Non c'è alcuna differenza tra noi e la sorgente del tutto. Sappiamo che per la vostra mente razionale sembra assurdo, ma davvero non c'è alcuna differenza tra un divano e la sorgente del tutto. Ci sono semplicemente differenti livelli di consapevolezza. Tutto è energia. Tutto viene dalla sorgente. Tutto è all'interno dell'uno, e nulla è al di fuori dell'uno. L'uno, la sorgente, è tutto ciò che è. Tu sei la sorgente, il tuo vicino di casa è la sorgente, la persona che ti vende il latte la mattina è la sorgente. Corpo fisico, emozioni, segni. I vostri corpi fisici sono veicoli fantastici, che vi permettono di fare esperienza diretta di Gaia. Attraverso i vostri sensi fisici vi godete la meraviglia di questa dimensione. Ci sono poi i sensi non fisici, più sottili, che vi guidano in continuazione, vi danno segnali, mostrandovi se ciò che state creando nella vostra vita è in armonia con la vostra nota originaria. Le vostre emozioni, come vi sentite, il famoso sesto senso che vi guida al di là dei sensi fisici, l'intuizione profonda, l'idea improvvisa, la sincronicità, sono tutti aspetti della vostra natura di creatori. Siamo creatori. La famosa espressione siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio potrebbe essere semplificata con questa: siamo la sorgente e quindi creatori. La fisicità e l'illusione della separazione tra l'uno e l'altro sono semplicemente un modo molto preciso e ben creato dalla sorgente e quindi da tutti noi per fare esperienza della nostra natura di creatori. Quando l'uno era uno. Quando l'uno era uno, prima che la manifestazione materiale avvenisse, non c'era possibilità di fare esperienza di se stesso, non c'era possibilità di espansione e di crescita. Da lì è nato il desiderio di manifestarmi in una dimensione dove posso guardarmi intorno e ricordarmi della mia nota originaria, e di cosa sto creando nella mia vita, per me stesso, in ogni istante. Come stai? Il modo in cui ci sentiamo è un'indicazione della direzione in cui stiamo andando. Come ti senti in questo ora? Sei felice? Se sì, è un ottimo segnale, continua in quella direzione. Sei infelice? Fermati, stai pensando qualcosa che non è in accordo con la tua vera natura. Fermati e chiediti, che tipo di pensieri sto pensando? Cosa sto osservando? Il processo creativo. Il processo creativo è basato sull'uso del pensiero. Più continuiamo a pensare lo stesso pensiero e più quel pensiero diventa forte e presente, finché raggiungerà un potere energetico tale da diventare una convinzione. Pim. So che mi avete chiesto di ascoltarvi con pazienza, e ricordo quello che avete detto a proposito del mosaico, e delle tessere che devono trovare il loro posto prima di poter vedere l'immagine. Ma quello che state dicendo è davvero difficile da capire, e un esempio potrebbe essere di aiuto. Guide e maestri. Immagina di essere a scuola. La maestra ti dice che non sei assolutamente portato per il disegno. La tua prima reazione sarà di incredulità. Quando siamo bambini non ci importa cosa disegniamo. Il solo fatto di usare colori su un pezzo di carta è piacevole, divertente e bello da morire. Ma la maestra ti continua a dire che disegnare non è proprio il tuo forte, e che artisti si nasce. Ti dice che i disegni di altri bambini della classe sono certamente più belli dei tuoi. È così che, a poco, il dubbio comincia ad entrare dentro di te. Il dubbio. Cos'è il dubbio? È l'entrata di pensieri che contraddicono la guida della vostra nota originaria. Torniamo all'esempio. Al commento iniziale della maestra, la tua nota originaria ti ha mandato immediatamente una reazione, un pensiero di incredulità. Non credere a ciò che la maestra ti sta dicendo, continua a disegnare e divertiti come un matto. Ma la ripetizione dei commenti sulla tua incapacità artistica da parte della maestra, o dei compagni di classe, e forse anche dei tuoi genitori a casa, farà sì che cominci a dubitare di te stesso e a pensare che forse hanno ragione gli altri, e che l'arte non sia per te. Convinzioni. La pratica costante nel tempo di un certo pensiero crea una convinzione, un'opinione, un credo. A quel punto il bambino si dice: non sono affatto bravo a disegnare. L'arte non è per me. Artisti si nasce. Pim. Se capisco bene, state dicendo che una convinzione è un pensiero ripetuto, a cui un po' alla volta crediamo. Guide e maestri. È proprio così. Il pensiero ripetuto entra un po' alla volta dentro di noi, e cominciamo a crederci. Il pensiero ripetuto crea una convinzione, che può riguardare voi stessi, o il mondo circostante. Ora fai attenzione, questa convinzione porta con sé una certa nota, che si accorda e risuona con convinzioni e pensieri dello stesso tipo. Questa risonanza ben determinata ha potere creativo. Quindi i pensieri ripetuti nel tempo si trasformano in convinzioni, e le convinzioni creano la nostra realtà. Fermatevi e rendetevi conto dei pensieri che avete scelto di pensare. La prossima volta che vi trovate completamente assorbiti nel pensare qualcosa, sia che vi faccia sentire bene, sia che vi faccia sentire non proprio bene, fermatevi per un attimo. Provate a rendervi conto che avete scelto di pensare una certa cosa, e che più vi ci siete soffermati, più avete cominciato a sentire la difficoltà di staccare il pensiero da quel soggetto, o argomento particolare. Pim. Perché è difficile staccare o interrompere la catena di pensieri? Guide e maestri. Perché quando decidete di concentrarvi su qualcosa, non siete più da soli nel vostro pensare. E perché, a quel punto, entra in funzione la legge dell'attrazione dei simili. La legge dell'attrazione dei simili. Pensate agli strumenti musicali che si accordano con la stessa nota, così da produrre un certo suono. La legge energetica universale, chiamata legge dell'attrazione dei simili, risponde alla vostra nota di pensiero di quel momento presente, portandovi più pensieri in risonanza con quelli sui quali avete deciso di concentrarvi inizialmente. A quel punto il pensiero primario non è più un pensiero con una nota passeggera. Accordato con mille altri pensieri dello stesso genere, crea una risonanza piuttosto forte e stabile, che comincia ad attirare circostanze materiali, fisiche, armonizzate con quel tipo di nota. È così che creiamo esperienze di vita nella nostra realtà. Pim. Vorrei capire meglio cosa è, e come funziona, quella che chiamate legge dell'attrazione dei simili. Guide e maestri. Le frequenze energetiche hanno un suono, e a seconda del suono, della nota, si aggregano con suoni o note simili. Tutto è regolato dalla legge dell'attrazione dei simili. Tutto ciò che vedi, tutto è aggregato insieme da questa legge, intelligenza universale. Universi interi sono aggregati da questa musica universale. Pim. La legge dell'attrazione dei simili funziona anche qui, su Gaia, nella vita di tutti i giorni? Guide e maestri. Naturalmente. Anche nella vita pratica l'unica legge che ha rilevanza è la legge dell'attrazione dei simili. I vostri pensieri sono frequenza energetica, ed hanno una particolare risonanza, una certa nota. Anche le vostre convinzioni hanno una certa risonanza, una nota particolare. La legge dell'attrazione dei simili risponde al suono che state emanando attraverso i vostri pensieri e ve ne manda di più in accordo musicale con ciò che avete scelto di pensare. Come abbiamo già detto, questa è la ragione per la quale quando cominciate a pensare ad una determinata cosa, e ci state per un po', trovate difficile distogliere il pensiero. Questo avviene perché la legge dell'attrazione dei simili sta partecipando, rispondendo, alla composizione della vostra musica mentale in quel particolare momento, portandovi pensieri della stessa nota di base. Pim. Vorrei tornare all'esempio del bambino che ama disegnare, a cui viene detto che è un pessimo artista. Se immagino me bambino in una situazione simile, mi vedo triste ed arrabbiato per i commenti ricevuti. Direi che è molto probabile che a quel punto decida di smettere di disegnare e creda di non essere portato per il disegno. Guide e maestri. È così. Se non siamo coscienti di come il processo creativo funziona, guarderemo alle esperienze della nostra vita come prove viventi che le nostre convinzioni iniziali erano esatte. Ora, se queste convinzioni creano esperienze che ci piacciono e ci rendono felici e in armonia, va tutto bene. Ma se, al contrario, continuiamo a rivivere situazioni di infelicità e difficoltà di ogni genere, il nostro passaggio su Gaia può diventare complicato. Creiamo sempre e comunque. È importante capire che il processo creativo avviene in ogni caso, che ne siamo consapevoli oppure no. Ripetiamo, creiamo attraverso la scelta dei nostri pensieri e delle nostre convinzioni interiori. Ciò in cui crediamo maggiormente diventa esperienza di vita, e le esperienze non fanno altro che darci una misura concreta delle nostre convinzioni principali. La magia accade quando diventiamo consapevoli che siamo creatori e di come creiamo, e quindi ci riappropriamo del nostro potere e scegliamo consciamente la direzione, e i pensieri, in risonanza armoniosa con la nostra nota originaria. È così che cominciamo a modellare la vita che ci siamo immaginati. Come funziona praticamente il processo creativo? Pim. È tutto così nuovo e non facile da capire. Potreste dirci qualcosa di più su come funziona praticamente il processo creativo? Guide e maestri. Creiamo attraverso i nostri pensieri. Abbiamo detto che creiamo attraverso i pensieri che decidiamo di pensare. Nessuno ci forza a pensare un pensiero particolare. La scelta è sempre nostra. Anche se può sembrare che i pensieri pensano, non è mai così. L'atto di pensare dipende dal pensatore. Solo noi decidiamo cosa pensare. L'unica intenzione di questa precisazione è quella di farvi capire il potere enorme che vive in ognuno di voi, così che possiate riappropriarvene. Attraverso la vostra scelta dei vostri pensieri create la vostra realtà. Pensieri passeggeri e pensieri continuativi. Fortunatamente non tutto si manifesta immediatamente. Un pensiero passeggero è solo un pensiero passeggero. Quando invece decidiamo di pensare a qualcosa in maniera continuativa, precisa, con l'uso di immagini, con forti emozioni, allora sì che stiamo creando in comunione con l'universo. Ed allora la legge dell'attrazione dei simili comincerà a rispondere alla nostra richiesta con molti altri pensieri della stessa natura. I pensieri prendono forma. A questo punto ci spostiamo dall'energia del pensiero puro all'energia del pensiero forma, che è costituito da più pensieri della stessa natura conglomerati insieme, con una nota più forte e una risonanza più densa. Le esperienze ci fanno da specchio. Le nostre esperienze nell'ora presente ci fanno da specchio. Ci indicano come stiamo creando e quali sono le nostre convinzioni più profonde. La bussola del come stai? Il modo in cui vi sentite vi indica se state creando in sintonia con la vostra nota originaria, creatori meravigliosi pieni di amore, o se siete in discordanza con questa verità profonda. Se state scegliendo pensieri di amore, vi sentirete bene e in armonia. Se state scegliendo pensieri di paura, vi sentirete infelici e preoccupati. In ogni momento, attraverso la nostra presenza mentale, possiamo scegliere consciamente una nuova direzione di pensiero. Ed è così che cominciamo a diventare creatori consapevoli delle nostre esperienze terrene. Il nostro stato naturale è uno stato di benessere. La normalità, ciò che non è normale, è il malessere. Il malessere è un campanello di allarme che ci chiede di cambiare il nostro modo di pensare, le nostre convinzioni. È il nostro io interiore, la nostra anima, che ci parla, e ci chiede di seguire la direzione della nostra nota originaria. Pim. So che non mi piace stare in una situazione di malessere, che trovo mille modi per staccarmi dalle sensazioni negative. È una buona cosa? Guide e maestri. È importante prestare attenzione al malessere. È importante non soffocare il senso di malessere. Una volta che ci ricordiamo chi siamo, e come creiamo, tutto ciò che dobbiamo fare è fermarci, ascoltare ciò che stiamo pensando, e cominciare, pensiero dopo pensiero, a ricostruire una storia differente, uno scenario differente, un'immagine differente, che è in armonia con il tipo di esperienze terrene che desideriamo vivere. La sensazione di benessere ci indicherà che stiamo muovendoci nella direzione voluta. Praticate i pensieri che vi piacciono. Nello stesso modo in cui abbiamo praticato per anni pensieri e convinzioni che non ci piacciono, possiamo ora praticare quelli che ci piacciono. La differenza è che, essendo coscienti e presenti nella creazione di ciò che desideriamo, ci vorrà molto meno tempo, e sarà tutto molto più facile e fluido. Creiamo sempre e comunque. Ricordate che il processo creativo funziona sia per ciò che vogliamo, sia per ciò che non vogliamo. Guardare alle nostre esperienze terrene, anche se non ci piacciono al momento, ci dà sicuramente il senso di come siamo potenti e di come l'universo risponde alle nostre richieste. E ciò ci offre l'opportunità per usare quel potere dentro di noi in comunione con la sorgente, nella realizzazione di ciò che ci rende veramente felici. Pim. Avete detto che è importante non soffocare il senso di malessere, e che una volta che ci ricordiamo chi siamo, e come creiamo, tutto ciò che dobbiamo fare è fermarci, ascoltare ciò che stiamo pensando e cominciare, pensiero dopo pensiero, a ricostruire una storia differente, uno scenario differente, un'immagine differente, che è in armonia con il tipo di esperienze terrene che desideriamo vivere. Potreste farci un esempio per aiutarci a capire come applicare praticamente ciò che dite? Guide e maestri. Immaginiamo una persona che ha un grande desiderio di stabilità finanziaria. La realtà è però molto diversa, le circostanze della vita, le esperienze che quella persona osserva, vede e vive, mostrano una seria mancanza di soldi. Quella persona sarà probabilmente molto frustrata, preoccupata e arrabbiata. Chi non vorrebbe avere denaro, specialmente quando non ce l'ha? È proprio dal vivere la carenza che nasce il desiderio dell'abbondanza. Eppure l'esperienza del non avere abbastanza soldi, di avere debiti, di non farcela ad arrivare alla fine del mese, sembra impossibile da cambiare. Anche se ci sono ora nei quali la situazione sembra migliorare, il risultato finale è il ritorno ad un'esperienza di carenza finanziaria. A una persona che osserva dall'esterno, che sa come funziona il processo creativo e come siamo tutti creatori delle nostre esperienze, non sarà difficile individuare le convinzioni e il dialogo interiore che sono il motore inconscio dell'esperienza di carenza che questo individuo continua a ricreare. Ciò che è necessario cambiare è proprio questa parte interiore, questo dialogo che rappresenta ciò in cui crediamo al di là delle parole. Queste convinzioni basate sulla carenza finanziaria hanno una nota particolare, che risuona in armonia con altre convinzioni dello stesso tipo, e che insieme creano esperienze su Gaia. Tornando all'esempio, il dialogo interiore di questa persona sarà probabilmente di questo tipo. Le entrate sono sempre meno delle uscite. Non sono in grado di pagare tutti i miei conti. Sono così stanco di avere problemi di soldi. Il mio lavoro non paga abbastanza. Finisco sempre per fare debiti. Chi è ricco ruba ed è disonesto. Sono come mio padre, ho le mani bucate. Non voglio più sperare in un miglioramento, tanto torno sempre allo stesso punto. Questo tipo di dialogo è certamente basato su una convinzione di base che potrebbe essere: non sono abbastanza bravo per avere i soldi che mi servono. Non me lo merito. La convinzione di base va modificata per far sì che il dialogo interiore cambi in maniera positiva. Quando questo avverrà, la conseguenza sarà che la realtà fisica e materiale rifletterà il cambiamento avvenuto. Non tutto si manifesta immediatamente. Pim. Avete usato l'espressione, fortunatamente non tutto si manifesta immediatamente. Un pensiero passeggero è solo un pensiero passeggero. Se provo ad immaginare cosa volete dire, mi viene in mente che forse l'universo ha creato un sistema così perfetto che ci protegge dalla nostra abilità ancora non perfezionata di creare senza renderci conto che stiamo creando. Spesso abbiamo pensieri che sono distruttivi per noi stessi e per gli altri, molto spesso inconsciamente. Se fossimo così potenti da originare una creazione istantanea, avremmo fatto una strage e Gaia avrebbe cessato di esistere molto tempo fa. È per questo che fortunatamente non tutto si manifesta immediatamente? Guide e maestri. Esattamente. Molto ben detto. Provate a immaginare cosa sarebbe Gaia se ogni pensiero si manifestasse immediatamente. Leggi di Gaia e potere creativo. Pim. Vorrei tornare all'argomento dell'essere creatori. Se capisco bene, ci state dicendo che siamo i creatori del nostro destino, che creiamo con il nostro pensiero, non occasionale ma continuativo. Che i nostri pensieri attraggono pensieri della stessa nota, e in questo modo il pensiero da astratto prende forma e diviene realtà. Che il modo in cui ci sentiamo ci dice in che direzione stiamo andando, se siamo felici siamo allineati con la nostra nota originaria, se infelici o preoccupati stiamo pensando pensieri di paura. E che se le esperienze che viviamo ci piacciono possiamo amplificarle pensando pensieri dello stesso tipo, se non ci piacciono possiamo cambiarle modificando il nostro modo di pensare e le nostre convinzioni. Mi domando e vi domando, che rapporto c'è tra le leggi di Gaia, la legge di gravità ad esempio, e il nostro potere creativo? Si dice che Gesù poteva camminare sull'acqua. State dicendo che se impariamo ad usare il potere creativo possiamo superare la legge di gravità e volare. Capisco che la domanda può sembrare impertinente, ma vi assicuro che non è questa la mia intenzione. Vi assicuro inoltre che non mi interessa affatto saper volare superando la legge di gravità. E che invece mi interessa moltissimo imparare ad indirizzare la mia vita usando il potere creativo. Vorrei quindi capire meglio quale è l'uso concreto e reale del nostro potere creativo su Gaia. I blocchi. Guide e maestri. L'uso concreto e reale del potere creativo su Gaia è completamente relazionato all'ammontare di blocchi, pensieri e convinzioni negative, che avete accumulato negli ora passati. I pensieri e le convinzioni negative accumulate in ora passati, formano interruzioni, barriere, sbarramenti, che bloccano il flusso del potere creativo. Pim. Che cosa intendete? Guide e maestri. Per capire, in questo caso la vostra logica può essere di aiuto. Se siete l'uno in vesti fisiche e il potere dell'uno è illimitato, di conseguenza anche voi siete illimitati in ciò che decidete e potete creare. Il vostro io espanso, o per meglio dire l'uno in voi, non ha idea di che cosa siano i blocchi o pensieri negativi che avete accumulato durante la vostra discesa su Gaia. La parte di voi che è l'uno, la sorgente del tutto, Dio, è amore incondizionato con un potere creativo senza limiti. Quella parte di voi incarnata su Gaia ha invece conosciuto, specialmente in giovane età, una serie di pensieri e convinzioni che hanno creato interferenze nella vostra capacità conscia di connettervi con la vostra nota originaria di creatori infiniti. Come abbiamo detto, è la natura di questa dimensione. Attraverso l'esposizione a tutto ciò che appare separato e diverso assorbiamo determinate forme pensiero, molte delle quali vivono al di sotto della nostra mente razionale, nell'inconscio. Alcune ci servono in maniera positiva, altre no. La realtà ci fa da specchio. La realtà che ci circonda è uno specchio perfetto delle nostre note dominanti. Tutto ciò è molto pratico, guarda dove sei, guardati intorno e vedrai l'immagine concreta delle tue convinzioni prevalenti. Ciò che ami della tua vita è un indicatore di pensieri che ti servono. Ciò che non ami e che hai il desiderio di cambiare è un indicatore di pensieri che non ti servono. Questi ultimi sono blocchi al tuo stato normale di benessere. La tua capacità di creare la vita che ami dipende dai blocchi accumulati e dalla tua capacità di vederli e trasformarli. A volte ne siete coscienti, ma più spesso no. Per questo motivo sentite malessere e le circostanze esterne manifestate continuano a riflettere l'immagine di ciò che non volete. Gesù è stato descritto come capace di curare l'incurabile, di camminare sull'acqua e di fare molti altri miracoli. Miracoli e leggi di Gaia. Tutto ciò che credete in assenza completa di dubbio è manifestabile. Assenza completa di dubbio significa essere uno con l'uno. Vivere in un corpo fisico al di là dell'oblio. Le leggi fisiche di Gaia sono relative a questa dimensione e sono stampate nella memoria genetica e cellulare del pianeta stesso e dei suoi abitanti. L'energia è organizzata in una certa sequenza e tutto ciò che è manifestato si comporta di conseguenza. Quindi il tuo corpo fisico non è organizzato in modo da poter volare o camminare sull'acqua. La manipolazione di questo ordine delle cose è possibile in assenza totale di oblio, in quanto la fisicità è subordinata alla causa prima, all'uno, e quando l'uno decide di incarnarsi in assenza di oblio ha potere sull'ordine delle cose. In qualunque altro caso la vibrazione non potrebbe mai raggiungere quel livello di unità necessario. Ci sarebbe sempre il dubbio, anche infinitesimale, dato dal programma energetico appartenente alla struttura di Gaia e a tutti gli organismi che ci vivono. Quindi la risposta alla tua domanda è: il tuo potere creativo non può modificare le leggi fisiche di questa dimensione. Ciò che il tuo potere creativo può concretamente e realmente fare su Gaia, al di là delle leggi fisiche, è praticamente tutto, sempre in relazione al livello di blocchi che ti porti dietro. Pim. Cosa sono i blocchi? Ancora una volta vi chiedo un esempio per capire meglio. Guide e maestri. I blocchi sono interferenze energetiche, di pensiero, di ciò in cui credi a livello inconscio. Desideri qualcosa, ma ci sono convinzioni che la contraddicono. Quando viviamo una situazione che non ci piace e cerchiamo di creare qualcosa di diverso, ma c'è una sensazione di instabilità o paura o dubbio, la prima cosa da fare è guardare ai pensieri dietro alla sensazione. Quelli sono i blocchi. Ecco l'esempio che hai chiesto. Immagina una persona che lavora in un ufficio 5 giorni a settimana. Riceve uno stipendio alla fine del mese, ma il lavoro non le piace molto. Quando si sveglia al mattino e pensa di dover andare a lavorare non è contenta, non ha una sensazione di gioia. Durante il fine settimana però quella persona rinasce, perché durante il tempo libero può dedicarsi al suo hobby. Raccoglie fiori selvaggi, li organizza in colori e forme, crea dei veri e propri disegni, li mette sotto pressa, impara come preservarne i colori e crea dei tessuti particolari e originali con i quali arreda la casa, le tende, i rivestimenti del divano, delle poltrone, eccetera. Questo è il suo passatempo, ciò che le dà gioia, ciò che la fa alzare il sabato mattina piena di entusiasmo e che le fa dimenticare del tempo e dello spazio. Potremmo chiamarla passione, talento, creatività. Chi entra nella sua casa ammira le sue creazioni e commenta: hai un grande talento, che bello, ne faresti uno anche per me? Eccetera. Il cuore di questa persona risuona di gioia per questa attività che la fa sentire viva. Se potesse ci si dedicherebbe a tempo pieno. Se solo potesse ci metterebbe tutta se stessa. Questo desiderio profondo è il suo io espanso, la sua anima, la sua nota originaria, che la chiama verso ciò che la rende felice, gioiosa, piena di entusiasmo. Ma c'è un'altra parte, un'altra nota all'interno di questa persona, la nota dell'impossibilità, la nota creata dai suoi blocchi, le sue interferenze energetiche. Pensieri e convinzioni che sono all'opposto del suo desiderio profondo, pensieri e convinzioni che negano il richiamo del suo cuore. Pim. Capisco l'esempio, ma cosa pensa quella persona? Quali sono i pensieri che voi chiamate blocchi? Guide e maestri. I blocchi, i pensieri, le convinzioni che passano per la mente di quella persona possono essere tantissimi. Ecco qualche esempio. Il lavoro è lavoro. I passatempi sono i passatempi. Il lavoro non è mai un'esperienza gioiosa ed è per questo che è chiamato lavoro, altrimenti sarebbe un passatempo. I passatempi non portano soldi. Chi sono io per poter costruire una professione di successo facendo ciò che mi piace? Nessuno lo fa. Tutti i miei amici non sono felici per i loro lavori. Li fanno perché devono lavorare, devono pagare i conti alla fine del mese. Questa è la vita. Il mio è solo un sogno. Non merito di far diventare realtà il mio sogno. Un sogno è un sogno. Devo mettere i piedi per terra. È troppo tardi per me. Ci avrei dovuto pensare prima. Potremmo continuare all'infinito. Questo è per darti un'idea. Il pensiero ripetuto all'infinito in forme diverse, il mio è solo un sogno, devo restare con i piedi per terra e continuare a fare, per soldi, ciò che non mi piace e fare ciò che mi rende felice nel poco tempo libero che mi rimane a disposizione, diventa una convinzione. La discordanza interiore non farà altro che creare e perpetuare la stessa realtà per quella persona. Pim. Quale sarebbe invece un modo di pensare, un'attitudine mentale, che potrebbe cambiare quella situazione e creare una realtà diversa? Guide e maestri. Ecco qualche esempio di come cambiare la nota dei pensieri che negano con nuovi pensieri in accordo con il desiderio del cuore di quella persona. Non sono felice. Mi sveglio al mattino e non voglio alzarmi dal letto. Questo lavoro non mi soddisfa. Se potessi creerei tessuti ogni giorno per il resto della mia vita. Ho i conti da pagare alla fine del mese. Potrei guardare a questo lavoro come un aiuto temporaneo e allo stesso tempo cominciare ad immaginare la mia passione come una vera e propria professione. I miei amici mi fanno sempre un sacco di complimenti quando vengono a casa mia. La sensazione che ho quando creo questi tessuti è incredibile. Ho così tanta energia. Sono felice. Ciò che faccio ha grande valore. Questi sono i miei talenti e le mie abilità particolari. È vero che ci sono tante persone che non oserebbero mai lasciare la sicurezza del posto di lavoro per seguire la loro passione, ma è anche vero che ce ne sono altrettante che lo fanno e con successo. Non devo fare tutto in questo secondo. Un passo alla volta. La cosa importante è che mantengo la visione. Se mantengo la visione, sono sicura che le cose cominceranno a cambiare in mio favore. Nel frattempo ringrazio ciò che questo lavoro temporaneo mi sta offrendo. La parola temporaneo mi dà sollievo. Sto immaginando il futuro che desidero e questo mi riempie di gioia. Quando apro gli occhi al mattino mi sento molto più sollevata. Mentre guido per andare al lavoro immagino la mia vita professionale esattamente come la desidero. Sono certa di essere sulla strada giusta perché mi sento bene. Come puoi osservare, la nota dei pensieri iniziali è completamente differente dalla nota dei pensieri finali. Ciò che abbiamo fatto è dimostrarti praticamente come intonarvi nuovamente con il suono della vostra nota originaria. Pim. Ho l'impressione che se decidiamo di trasformare la nostra realtà in modo che sia in armonia con i nostri desideri più profondi, ci sia da fare un certo tipo di lavoro. È così? Il lavoro gioia. Guide e maestri. È così. E ci piace chiamarlo lavoro gioia. Il lavoro gioia si può fare lasciando andare i blocchi e concentrandoci solo sulla nota felice ed entusiasta del desiderio. Diventiamo il desiderio stesso. Risuoniamo in armonia con quella nota anche se non ne vediamo ancora alcuna evidenza nelle nostre esperienze fisiche. Diventiamo un'unica armonia, e la legge dell'attrazione dei simili risponderà unicamente a quella nota dominante, finché le nostre esperienze ci daranno la prova concreta della risonanza che abbiamo raggiunto con la nota del desiderio in questione. Questo funziona dalle cose piccole alle cose grandi. Pim. A quali esperienze vi riferite? Guide e maestri. Ecco cosa potrebbe manifestarsi nella realtà della persona dell'esempio come conseguenza dell'accordo ritrovato. Il suo datore di lavoro le concede di lavorare 2 giorni da casa. Il negozio di decoro di interni, vicino a casa sua, la chiama chiedendole se può ricoprire il divano che verrà esposto in vetrina con i suoi meravigliosi tessuti. Un'amica di un'amica, alla quale aveva fatto delle tende 2 Natali fa, la contatta chiedendole se può mettere delle foto del suo materiale sul suo sito web. È importante ricordare che le possibilità sono infinite, e che l'azione primaria è accordare la nostra nota con quella originaria. Questo accordo è il motore primo. L'accordo del suono è ciò a cui risponde la legge dell'attrazione dei simili. Come un direttore d'orchestra, scusate il gioco di parole, tutto ciò che è necessario per la manifestazione di ciò che desiderate nel piano fisico. Quindi, per concludere la nostra conversazione, ricordate che il potere creativo su Gaia può essere applicato a qualsiasi area della vostra esperienza umana. È illimitato, sempre tenendo conto dei blocchi o pensieri negativi che avete accumulato. Il vostro lavoro gioia è identificare i blocchi, lasciarli andare, e concentrarvi su un'unica nota, la nota del vostro desiderio, lasciando che tutte le condizioni necessarie alla sua trasformazione in esperienza terrena si presentino. Nel momento in cui le condizioni si presentano sotto forma di incontri, intuizioni, sogni, idee, conversazioni, eccetera, e sentite l'ispirazione, il sì interiore, agite concretamente. Questa è chiamata azione in accordo con la vostra nota originaria. È piacevole, fluida, senza sforzo, e molto efficiente. Amare se stessi e processo creativo. Pim. Ho ancora una curiosità, perché avete messo insieme l'amare noi stessi e l'essere creatori? Che relazione c'è tra i due argomenti? Guide e maestri. Amare noi stessi apre la porta del cuore verso noi stessi, e verso la risonanza con la nostra verità profonda, con la nostra nota originaria. Siamo creatori, siamo sorgente, siamo uno, siamo Dio. Tutti siamo, non solo io o solo tu, perché meritevoli, speciali o scelti. Tutti siamo, e tutto è. Quando amiamo noi stessi la separazione non esiste più. Attraverso l'amore di noi stessi ricominciamo a risuonare con l'uno, con il cuore universale, e creiamo consciamente nella direzione della nostra gioia infinita, felicità e servizio del tutto. Ancora una volta è stata una bella conversazione. C'è solo amore.